Due di denari, dammi la via. Dollaro ciao, euro ciao, franco svizzero ciao con la Rosciani e col Meazza. Sono un bravo investitor. Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Ci sono più forme di dichiarazione al fisco, per persone fisiche e per le società. La più diffusa è il 730, che è rivolta ai pensionati e ai dipendenti. Sì. Scusa Valerio, ma tu non ascolti Due di Denari su Radio 24? Lì ne parlano spesso di questi argomenti. Eh no, signor Nano, io ascolto solo Radio Pisare e Faso, è una radio indipendente di Piacenza. Vabbè. Eccoci qua, buongiorno. Eccoci qua, abbiamo cominciato con l'economia spiegata dal Nano, sì. Che tra l'altro, voglio precisarlo, da padano. È una forma di così italianizzazione, non so se si può dire, cioè esiste neanche questa parola. Ma noi possiamo anche coniare dei nuovi termini. Di un termine milanese che è nani, che di solito si usa per appunto i bambini. Piccoli. Quindi il nani, che però poi italianizzato è diventato il nano. Sono questi brevi video molto divertenti, ma poi anche istruttivi, fanno un po' di educazione finanziaria, diciamo proprio di base e in modo molto leggero. L'economia spiegata dal nano. E in questo contesto in cui si tentava di spiegare la dichiarazione dei redditi al cosiddetto Giargiana. Esatto, che sarebbe il forestiero genericamente. Esatto. Il diversamente padano. Sì, colui che già non è della circonvalla, cioè della cerchia più interna di Milano, come si dice a Milano, appunto. Va bene, abbiamo detto questa cosa padana, nonostante però ci troviamo a Roma, quindi non è educato da parte nostra, non è elegante. No, però siccome sul sito del Sole 24 Ore questo video, diciamo, è pubblicato da pochissime ore, ci piaceva segnalarlo, visto che ci citano anche per questo. Ne approfitto per salutare Germano Lanzoni, che è il milanese imbruttito, che è diventato anche un amico di Due di Denari, grazie al quale siamo riusciti a fare anche questa liaison e a farci menzionare sui loro video. Esatto, però noi siamo, come abbiamo detto, a Roma. Perché siamo a Roma? Perché purtroppo oggi è l'ultima giornata di consulenza 2020 e questa è la manifestazione organizzata dall'Associazione Nazionale dei Consulenti Finanziari, come avete avuto modo appunto di seguire da tre giorni a questa parte, quindi ultima giornata anche di confronti, perché peraltro sono state tre giornate animate anche da molti eventi, molti momenti di confronto, molti convegni, molte iniziative, e oggi appunto abbiamo l'ultima giornata. Due personaggi che tra poco parleranno sul palco, le abbiamo chiesto loro gentilmente di anticipare i contenuti del loro intervento qui a Due di Denari, e quindi direi che possiamo già presentarli e poi naturalmente vi anticiperemo anche l'argomento con il quale avremo il piacere di conversare con loro. Allora, introduciamo i nostri esperti di valore mondiale, come d'abitudine qui sempre a Due di Denari non scendiamo al di sotto di questo livello, e in rigoroso ordine alfabetico per cognome, secondo i costumi abituali, diamo il benvenuto al professor Ruggero Bertelli, che è professore di economia degli intermediari finanziari all'Università di Siena. Buongiorno professor Bertelli. Buongiorno a voi. E poi insieme al professor Bertelli il vicepresidente vicario ANASF, che è appunto l'associazione che organizza Consulenzia, che è anche responsabile dell'area formazione e rapporti con le università, si tratta del dottor Luigi Conte. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno, grazie. Oggi si parlerà molto di competenze necessarie ai consulenti finanziari, chiaramente per rendere il servizio migliore alla propria clientela, ma in realtà cercheremo di guardare questo rapporto anche in maniera reciproca, perché c'è anche un tema di valore che è dato al consulente finanziario da parte del cliente, e in realtà non sempre questo valore si riesce a individuare, a come dire, elaborare in qualche modo. Per cui vi chiediamo anche se volete intervenire su questo argomento questa mattina. Avete che tipo di rapporto con il vostro consulente finanziario? Come lo avete individuato? C'è stato un passaparola? C'è stato un amico che vi ha suggerito il professionista al quale rivolgervi? Siete andati invece a fare un check-up dell'organismo di consulenti, l'organismo appunto di rappresentanza di questa categoria, e magari avevate una rosa di nomi possibili e quindi siete andati a verificare le credenziali di questa professione? Le modalità sono tante, e quindi raccontateci qual è il vostro rapporto. Noi oggi proprio ci soffermeremo sul tema delle competenze, e anche parleremo di finanza comportamentale, che è la grande branca, diciamo, di competenza del professor Bertelli. Ne scrive molto anche su Plus 24 del Sole 24 Ore. e ritorneremo anche sul nostro grande cavallo di battaglia. Naturalmente ci sarà un giornale radio del risparmio. Se volete comunicare con noi, vi diamo gli abituali riferimenti: 800 24 00 24 per intervenire in diretta, oppure sms 349 238 6666, anche per WhatsApp, ma quando siamo in trasferta sapete che il WhatsApp è un po' più laborioso da gestire. Però Marco Lombardo lo presidia da Milano senza alcun problema, e ringraziamo Marco Lombardo per questa badanza anche a distanza. Vedi che ho fatto la rima, sono proprio poeta dentro. No, ma tu proprio sei incontenibile come poeta. Saluterei però anche Gloria Guerrera, che in questi giorni ha fatto la badanza romana, e le siamo grati, siamo grati appunto anche a lei. Partiamo col giornale radio del risparmio. Drin drin, edicola risparmio. Non abbiamo scelto Venditti perché siamo a Roma. Certamente. Mi ha tolto le parole di bocca, ormai la pensiamo alla stessa maniera. Sono un po' preoccupata di questa cosa. Sì, anche mia moglie, secondo me, potrebbe cominciare a preoccuparsi. Leggi con cautela questa notizia, ti prego. Cioè, no, io vorrei dire questo. No, e poi la devi raccontare nella modalità con cui l'hai raccontata questa mattina a me quando l'hai intercettata in rete. Allora, sì, l'ho intercettata dalla lettura delle pagine di Norme e Tributi sul Sole 24 Ore, che io leggo sempre religiosamente e vi invito a fare lo stesso tutte le mattine. Allora, volevo dirti questo, Deborah. Ladro tu e l'azienda. Ecco. Che mi rubate i soldi ogni mese, il cedolino è sbagliato. Un ottimo rapporto fra questo dipendente proprio, e i suoi datori di lavoro. Proprio direi. Per quando l'armonia regna sovrana sul posto di lavoro. Sì. Ebbene, per quanto ti possa sembrare curioso, questo signore che appunto ha proferito codeste parole poco lusinghiera nell'indirizzo dell'ufficio del personale, forse si chiamava Human Resources, non lo so, però insomma la sostanza è quella, è stato reintegrato. Era stato licenziato perché insomma era sembrato che il linguaggio fosse un pochino fuori posto, però, un po' audace, esatto, però invece il Tribunale di Milano, esaminando la vicenda, ha detto: ma no, perché qui bisogna valutare il contesto ambientale nel quale queste parole sono state pronunciate. Appunto, ripeto, ladro tu e l'azienda che mi rubate soldi ogni mese. Non vorrei invitare gli ascoltatori a fare lo stesso, le ascoltatrici a fare lo stesso, perché poi comunque è dovuto passare dal Tribunale per ritrovare il posto di lavoro. Ma lì è stato detto, è stato spiegato allora in occasione del dibattimento, che c'erano state già dei problemi nella registrazione delle buste paga precedenti. Praticamente il dipendente lamentava la non corretta registrazione in busta paga delle ore effettivamente lavorate. Dagli una volta, dagli due volte, la terza ora dato del ladro, sì, esatto, al datore di lavoro. Si è un pochino impermalito. E allora scrive il Tribunale di Milano, devo dire molto comprensivo, ha detto: vabbè, ma qui si tratta di una reazione puramente istintiva ed emotiva rispetto a precedenti inadempimenti del datore di lavoro. E così il dipendente ha mantenuto il posto. Speriamo che però adesso tenga freno la lingua, perché non so se saranno capaci. Allora invitiamo l'ufficio personale a munirsi di calcolatrice e foglio elettronico aggiornati, e il dipendente a darsi una calmata, perché poi non si sa come va a finire. Allora, tu non ci crederai mai, ma il coronavirus ha un impatto sui mutui. Questo non l'avrei mai detto. Ecco. Colgo l'occasione per dire: se volete aggiornamenti di tipo sanitario, medico, clinico sul coronavirus, dopo di noi, dopo la nostra trasmissione, Obiettivo Salute con Nicoletta Carbone. Allora, fino ad ora l'escalation di notizie sul coronavirus ha avuto effetti finanziari abbastanza importanti. Abbiamo visto le borse tremare per qualche giorno, poi in realtà da un paio di giorni a questa parte stanno veramente provando i listini ad affrancarsi totalmente dalle preoccupazioni generali, che però, ormai di questo siamo abbastanza certi, sono preoccupazioni che torneranno quando quantificheremo il danno economico sull'economia reale di questo blocco totale dell'economia per certi versanti, appunto nelle relazioni fra la Cina e le altre economie. È aumentata la volatilità in borsa, sono aumentati gli investimenti verso i cosiddetti beni rifugio, situazioni che vediamo ricorrentemente quando si determinano certe fasi di emergenza che possono avere vari tipi di matrice. C'è stato però anche un impatto significativo sull'andamento degli indici Eurirs, che non sono appunto altro che quei parametri sui quali vengono praticamente elaborati i tassi di interesse applicati appunto ai mutui. L'andamento di questi indici ha una ricaduta molto forte anche nelle tasche di chi è in procinto di stipulare un mutuo nuovo, e potrebbe essere che in questi giorni qualcuno abbia trovato una sorpresa. Se avete pattuito con la banca magari qualche settimana fa un determinato tasso di interesse su cui calcolare appunto la rata del vostro mutuo o un finanziamento di lungo termine, potrebbe essere che in corsa la banca in questi giorni abbia rimodificato le condizioni, per cui fate attenzione perché è un tasso che generalmente può avere anche una volatilità piuttosto pronunciata quando ci sono queste fasi di turbolenza sui mercati finanziari, ne scrive Vito Lops sul Sole 24 Ore online di oggi. E invece andiamo alla cronaca dalle aule parlamentari. Con... un brivido mi ha attraversato la schiena. So che questo tema ti interessa sempre e lo segui, specialmente perché sto per dirti di cose fiscali, e quindi diciamo che il tuo piacere è doppio nell'ascoltare questa notizia. Pagamenti tracciabili. Ah, abbiamo delle novità. Allora, sai che l'abbiamo detto già diverse volte, due di denari da quest'anno. È, diciamo così, sconsigliato l'uso del contante per acquistare specialmente prestazioni sanitarie, perché se il pagamento non è effettuato in modalità con modalità tracciabili potrebbe essere contestata poi la detrazione, cioè non ti viene riconosciuto il fisco, non ti fa più quello sconto dall'IRPEF del 19%. Sì, abbiamo fatto l'elencone grazie al lavorone fatto da alcuni colleghi del Sole 24 Ore che rigo per rigo hanno trovato tutte le spese che sono appunto interessate a questa novità. E allora nel mille proroghe però si sta pensando di fare una cosa, cioè di dare un po' di tempo per questa novità, anche perché lo statuto del contribuente, che è una legge abbastanza dimenticata e trascurata, ma prevederebbe che per questo tipo di novità ci sono almeno 60 giorni di interregno in cui non si applica e poi si comincia ad applicare, sarebbe dal 1 marzo. Nel mille proroghe stanno pensando di portarlo al 1 aprile. Quindi chissà che non ci sarà poi un pesciolone. I pagamenti effettuati in contanti, anche se appunto non tracciabili nei primi 3 mesi, non sarebbero comunque minacciati da questa perdita dello sconto fiscale. Attenzione, perché non c'è ancora niente di definitivo, e tra l'altro su questo problema, su questo aspetto, c'è anche la necessità di trovare le coperture. Lo riferiamo oggi dottamente, non nelle pagine di norme e tributi, però a pagina 2 del Sole 24 Ore. Che sgarbo che avete fatto. Ma no, perché? Senti, l'ultima notizia, questa dobbiamo necessariamente darla, perché abbiamo creato come di una suspense per tutta la settimana, e questo percorso che abbiamo fatto a tappe, che durano da 4 anni, in realtà ci portano domani all'ennesima puntata su questo argomento. Se riprende il traffico ferroviario, noi oggi ritorniamo a Milano e da domani appunto da Milano faremo questa puntata, di nuovo ritorneremo sulle bollette a 28 giorni. Ebbene, ma come mai? Perché anche oggi abbiamo la novità. Il Consiglio di Stato ha dato ragione all'Agicom, l'autorità garante delle comunicazioni, sui rimborsi per le bollette a 28 giorni. È legittimo chiedere che i rimborsi siano automatici. Sapete che le compagnie hanno un po' nicchiato su questo spunto, su questo punto. Qualcuno ha detto: ma no, ma perché ti devo ridare esattamente l'importo che ti ho prelevato in eccesso quando ti ho fatto la tariffazione a 28 giorni anziché quella mensile sui 30? Ti do un servizio diverso, ti do qualche giga in più per il collegamento internet, eccetera. No, invece i consumatori vogliono la moneta sonante, pochi maledetti e subito. L'autorità per le garanzie nelle comunicazioni può imporre agli operatori di telecomunicazioni, appunto a fronte di quei famosi comportamenti lesivi dei diritti degli utenti, l'obbligo di corrispondere loro un indennizzo che può anche essere automatico. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato in una sentenza che appoggia l'idea dei rimborsi automatici per le tariffe a 28 giorni. Ricordiamo anche che il Consiglio di Stato ha pubblicato ieri, e ne abbiamo dato notizia, il testo di una delle sentenze con cui aveva rigettato i ricorsi delle compagnie telefoniche per le bollette a 28 giorni, chiarendo che l'indennizzo deve essere d'ufficio. Ne parliamo nella nostra diretta di domani di nuovo. E allora ti dirò che stiamo intanto creando un altro evergreen, un altro tema sempreverde qui per due denari. Non so se anche questo porterà, come per le bollette a 28 giorni, a modifiche normative, al cosiddetto Roscianellum. No, questo come qua lo chiameremo visto. Meazzarellum, spero. Allora, qua. O Caprinellum, come da Maurizio Caprino. Secondo me è più coerente chiamarlo così. Che è il nostro così. Collega massimo esperto mondiale di questioni della strada. Di questioni rotabili. Allora, il tema appunto che si sta imponendo all'attenzione è il dibattito sull'autovelox. Senti un po', Deborah, che cosa è stato riferito a DDD, Dillo a due di denari. Dillo a due di denari. Allora, volevo dire che lo scopo dell'autovelox deve essere quello di non andare a velocità elevata per non creare incidenti ed eventualmente morti. Quindi non sono assolutamente d'accordo con quel signore che diceva: benvenuti autovelox nascosti. Penso di essere stata chiara. Arrivederci. Gli autovelox servono solo a battere cassa, nient'altro. Volete tutelare i cittadini? Mettete i dossi in maniera tale che siamo costretti a rallentare. Non a pugnalarci alle spalle spremendoci, visto che dobbiamo correre perché dobbiamo pagare le tasse, dobbiamo pagare le bollette, dobbiamo pagare il mutuo e dobbiamo correre perché purtroppo se non lo faccio io lo fa qualcun altro al posto mio, quindi siamo costretti a correre. Volete tutelarci? Mettete i dossi, non i velox. E togliete la patente a chi non ha i riflessi per guidare un'arma, perché la macchina è un'arma, la gente muore. Per il signore che si lamenta che ha preso le multe a 81 km l'ora, ci sono 5 km di tolleranza sugli autovelox di legge, ci sono 3-4 km di tolleranza che i tachimetri delle auto segnano in più, quindi tu matematicamente non stavi facendo 81, facevi tra 86 e i 90 km l'ora. Vai più piano, fai come i tedeschi, che quando c'è 80 vanno a 78, non a 85. Italiano! Sì, diciamo che sono parlano da sé questi commenti, e soprattutto abbiamo capito che effettivamente, come dicevi tu all'inizio, abbiamo trovato un altro grande argomento che scalda più delle bollette, dei mutui, dei pagamenti tracciabili, perché ce ne sono tanti di argomenti. E si stanno anche creando poi questi due schieramenti che, diciamo così, si affrontano non proprio con fair play, verrebbe da dire. Ecco, sembra un po', sono quasi più infuocati loro del derby, esatto, di Milano che si giocherà. Anzi, volevo fare gli auguri al mio amico Lino Milan. Sì. Che ci precede sempre proprio per la domenica sera. Gli auguro veramente una splendida serata domenica. Praticamente la contrapposizione fra gli irriducibili delle regole e i libertini un po' al volante. Beh, diciamo quelli che lamentano il fatto che questi autovelox siano usati anche spesso in modo così per giovare molto ai conti dei comuni, mettiamola così. Senti, partiamo col tema di oggi, se no i nostri ospiti se ne vanno. Abbiamo uno stacco musicale apposito. Ottimo. Che dovrebbe partire da Milano, immaginiamo, ma non parte. Ed era. Vuoi cantarla tu direttamente, sì, Mauro? Sì, siccome la dovevo cantare io. Sì, perché dice appunto: il mio bancario è un consulente, lui mi risponde di domenica, risolve tutti i miei problemi senza neanche far la predica. E allora, appunto, c'è qui Luca Conti, che è il vicepresidente vicario di ANASF. L'ho anche degradata in questo momento. Il suo cognome mi è caro, perché io, essendo tifoso interista, chiaramente faccio riferimento a un Conte. Conte, anche io, e come anche poi come Presidente del Consiglio, e tutto troppi. Questo era per capire se la regia avesse trovato casomai il file. Niente, audio, ma partiamo. Dicono che l'ha disperso, e allora a questo punto parto con la domanda. Un bravo consulente è quello allora che risponde di domenica, che si fa sempre trovare, che così è sempre disponibile per il cliente, lo accontenta in tutto, lo vizia, o forse non è esattamente quello che crediamo bisogna... Che un bravo consulente sia innanzitutto un consulente che abbia le giuste competenze per poter seguire il cliente, per poterlo accompagnare nel percorso della vita rispetto agli obiettivi che si è posto. Quindi questo è l'elemento centrale. La disponibilità consiste anche nel cercare di offrire un servizio che sia, diciamo, consistente nel tempo, che abbia una sostanza. Rispetto alle competenze, riteniamo che come associazione, io personalmente porto la voce di tutti i consulenti che seguono un po' questo messaggio che cerchiamo di dare al mercato. Rispetto alle competenze, noi riferiamo sempre della necessità che queste competenze siano non solo competenze tecniche, noi parliamo di competenze sensibili, le competenze che fanno riferimento alla capacità di ascolto, alla capacità di interazione, a quello che può essere identificato nella determinazione dei bisogni, e quindi il portarsi avanti cercando di condividere un processo sicuramente elaborato, complesso, che porti poi a delle soluzioni. E quelle soluzioni devono essere, come dire, il giusto compimento di quel percorso che si compie insieme. È chiaro che le dinamiche sono complesse, è chiaro che la necessità di scambiarsi informazioni fa parte di quelle competenze sensibili che il consulente deve avere. Quindi credo che sia questo il messaggio fondamentale, e questo vada ricercato da parte dei risparmiatori e degli investitori. Io vorrei ringraziare il vicepresidente Conte per aver tradotto quella che poteva essere soft skills, competenze sensibili, che mi piace molto di più, perché mostra, diciamo così, quella che mi pare essere una dote da curare sempre di più, ma ora lo chiediamo anche ovviamente al professor Bertelli, la sensibilità, che è una splendida inclinazione dell'animo, mi verrebbe da dire, no, professor Bertelli? Non sarebbe la prima cosa che ci viene in mente quando parliamo di soldi, ma forse la sensibilità è davvero la prima virtù da coltivare. Beh, diciamo che un bravo consulente deve essere un bravo architetto delle scelte, cioè deve riuscire a mettere in condizione il risparmiatore, l'investitore, di fare le scelte corrette anche quando istintivamente lui farebbe le scelte sbagliate, perché questo è un po' il tema. Quindi essere sensibili, a mio giudizio, cosa vuol dire? Vuol dire innanzitutto far percepire la competenza, perché è chiaro che io devo essere percepito come competente, perché quello che poi dirò come consulente deve essere ascoltato dal mio cliente, dal mio investitore. Quindi se lui mi percepisce competente, mi ascolta. Non se sono competente mi ascolta, se lui mi percepisce come competente mi ascolta. Ora è chiaro che io, per farmi percepire competente, devo essere competente, e qui è chiaro che c'è tutta una norma anche che mi obbliga ad esserlo, ma non basta, perché se io sono competente ma non vengo percepito come tale, il cliente non mi segue. Allora il bravo consulente non è accondiscendente, è una guida, una figura che educa anche. È una figura che educa, è una figura che costruisce quella che Richard Thaler, il premio Nobel per l'economia del 2017, chiamerebbe una architettura della scelta, che conduce quindi a fare le scelte corrette in modo libero, senza imposizioni. Mi viene in mente il tema dell'autovelox. Il tema è che la gente deve andare più piano in automobile, però se glielo imponi, questa cosa evidentemente, come dire a un figlio, devi studiare il pomeriggio, no? Non è vissuta benissimo, no. E sappiamo anche che non lo farà, peraltro lo sappiamo anche. Quindi dobbiamo trovare un sistema di architettura delle scelte che conduca la gente ad andare più piano. Sono meglio i dossi o gli autovelox? Non lo so, certamente l'obiettivo è un obiettivo importante che va raggiunto attraverso un sistema di architettura. Ecco, il tema del consulente è quello della competenza percepita e della capacità di assumere un ruolo guida che non deve mai venire meno, mai, in nessun momento. Un'altra sollecitazione, raccontiamo anche un po' i nostri fuori onda, i nostri ascoltatori, ovviamente ci confrontiamo prima di andare in onda con Due di Denari. Il professor Bertelli ci diceva anche che è importante che il cliente percepisca che gli viene dato valore da parte del consulente. Come si fa ad intercettare questa attribuzione di valore, appunto, da parte di un consulente? Molto spesso i clienti ce lo sottolineano, naturalmente noi veniamo visti solamente come persone che magari hanno un certo patrimonio, un po' di soldini da farti gestire, e lì si esaurisce tutto, no? Quindi quando è che riusciamo a capire se effettivamente il consulente che abbiamo davanti a noi assume questo ruolo di educatore, quindi si prende cura veramente di tutti i nostri bisogni? Noi diamo generalmente con Mauro Meazza una regola di base: se il consulente insiste solo con il raccontarti i bei prodotti che ha di casa sua, non è certamente la figura che fa per te. Se si impegna a cercare di capire per un lungo periodo di tempo, sono già le 11:32, finisco la domanda Luigi e poi andiamo con la borsa, se si impegna invece a capire, magari lo fa per un po' prima di parlare di prodotti, i tuoi bisogni, i bisogni della tua famiglia nel medio e nel lungo termine, allora magari è la figura giusta con cui parlare. Se siete d'accordo me lo spiegate dopo, perché adesso non avevo proprio visto l'orario. Ti eri fatta trascinare, d'altra parte il tempo vola quando ci si diverte, ma è il momento di aggiornarci sulle borse. Chiedo scusa, io ho comprato le birinzine e ci ho guadagnato un sacco. Grazie Manera. Di denari. Il mio bancario è un consulente, lui mi risponde di domenica, risolve tutti i miei problemi senza neanche far la predica. Il mio bancario è il confidente di quasi tutti i miei segreti, mi amministra le sostanze senza tante formalità. Facciamo uno sciopero bianco, tutti a 50 all'ora rispettando i limiti. Vediamo poi come si intasa tutta la viabilità nazionale. Poi mi aggiungo. Buongiorno Deborah e Mauro, scusate la domanda, ma volevo sapere se Mauro è parente con il grande Peppino Meazza, che io ho conosciuto tanti anni fa a Lavagna quando andavo al mare d'estate. Grazie. A Milano si dice Giorgianese, per dirvi che il Vegna de Fera. Adesso possiamo parlare, ci siamo intrufolati fra la sigla di ripartenza, sì. E i WhatsApp dei nostri ascoltatori. Sì, perché effettivamente ci eravamo proprio fermati sul punto: come riconosciamo un consulente, se fa per noi, se è adatto, se è adatta a noi oppure no? E tu suggerivi ai nostri esperti che abbiamo qui in studio, il professor Ruggero Bertelli e il vicepresidente ANAS Luigi Conte. Ma uno dei metodi che noi consigliamo sempre è: il consulente ascolta me o è tutto preoccupato di dirmi che bel portafoglio ha e che bei prodotti vuole propormi? Che bel catalogo, esatto, vuole propormi. Mm-hmm. Perché forse in questo secondo caso non è tanto utile, non mi è tanto utile, poi magari sarà pure bravo, però potrebbe non essere adatto a me. Professor Bertelli. Il consulente è quello che è la persona che fa domande. Quindi deve fare domande e deve fare domande su di noi, deve fare domande sui nostri obiettivi, deve fare domande su perché risparmiamo. È molto importante che il consulente ci faccia percepire che investire viene dopo il risparmiare, no? Quindi abbiamo il momento del risparmio, che vuol dire sostanzialmente io lavoro per i soldi, perché questo vuol dire risparmiare, io lavoro per i soldi. E c'è il momento dell'investimento, che è il momento in cui i soldi lavorano per me, che è una differenza abbastanza importante. Allora è chiaro che ho un consulente che deve stimolare la mia azione di risparmio, e forse questa è l'unica cosa che la famiglia deve capire. Tu cosa devi fare? Devi risparmiare, questo è il punto. Cioè, ma poi dove metto questi soldi? Ecco che ci sono io che ti aiuto a investire. E quanto mi dai? Bene. Che è l'altra domanda che poi naturalmente fa cascare le braccia anche al bravo consulente, che vuole impostare in maniera molto responsabile questa relazione, ma di fronte alla consueta domanda che si sentono fare tutti, ovviamente. Ecco, quando un investitore, una famiglia, un risparmiatore chiede quanto mi dai, vuol dire che non ha altro da chiedere. Il che vuol dire sostanzialmente che il suo consulente non ha fatto un buon lavoro. E quindi di fronte a questa domanda è come dopo aver spiegato a tuo figlio che deve studiare, ti guarda e ti dice: posso uscire? Beh, forse c'è qualcosa che non ho, forse ho fatto io. Questo parallelismo errore. È bellissimo, eh? Professore. Sì, infatti, proprio non si è capisce. Proprio così. Mm. Dottor Conte, di fronte alla reticenza del cliente o del possibile cliente che non dà però le risposte giuste alle domande che in maniera molto responsabile il consulente prova a fare per capire se si può instaurare una relazione profittevole per entrambi, qual è la strategia da adottare? Lo si molla? Quanto ci si può lavorare con una persona che comunque non è disposta o predisposta a condividere fino in fondo i bisogni che ha, per poi impostare una buona strategia e andare avanti verso i risultati? Beh, secondo me il centro del discorso resta nella gestione del tempo. Il buon consulente non cala la sua attenzione esclusivamente nel cronos, nel tempo cronografico. Il buon consulente vive nel tempo della relazione, e il tempo della relazione è il tempo della pazienza, è il tempo della attenzione anche al più piccolo dei segnali che il cliente può manifestare. Talvolta fare delle domande così semplicemente dette può non avere il risultato sperato, tante volte cercare di trovare, incontrare il cliente in campi, in ambiti rispetto ai quali il cliente possa aprirsi effettivamente, può essere effettivamente uno stimolo importante. Per cui la relazione di quel tempo sociale, che poi in realtà, come un po' i classici raccontavano, vive anche attraverso il tempo interiore, quindi il concetto di sensibilità anche qui rileva. Il consulente deve essere in grado di rilevare appunto appunto quel tempo interiore che ogni persona ha, ogni essere umano ha, con i suoi sogni e i suoi bisogni e col contesto in cui vive. Il contesto è importantissimo, quindi certamente l'esperienza in questo senso aiuta. Certo. È importantissimo appunto relazionarsi prima di fare domande finalizzate esclusivamente alla cosiddetta prestazione di servizio, tenendo conto che, rispondo anche indirettamente alla domanda che faceva prima, la questione del quanto mi dai si risolve se nel tempo si lascia percepire la necessità del raggiungimento degli obiettivi, quindi concretizzare degli obiettivi rispetto ai quali non c'è più la domanda quanto mi dai, perché raggiungere un obiettivo significa riferirsi a qualcosa di tangibile, di concreto, che vive nell'immaginario del cliente. Quindi è importante che l'investitore sia, come dire, orientato, sia accompagnato alla definizione concreta di questi obiettivi. Ma rispetto a questo quadro che avete descritto entrambi e che è un quadro molto, molto bello, in cui c'è un rapporto proficuo da ambo le parti, cioè quasi, no, come diciamo prima, il consulente che cresce un po' col cliente e viceversa. Invece la realtà operativa, cioè la capacità, la preparazione dei consulenti finanziari in questo momento è sufficiente per produrre tutto questo? Va migliorata? Vanno previsti percorsi diversi? Professor Bertelli. Beh, la realtà è naturalmente una realtà abbastanza complessa da percepire, sì, molto varia. Questo diciamo, dobbiamo dirlo, no? Sì. Per giustificare un po' le incertezze di entrambe le parti, del consulente e del cliente ovviamente. Non sono momenti facili quelli che stiamo vivendo. No, in generale no. Tuttavia è chiaro che il tema del ruolo è uno dei temi chiave, cioè dobbiamo lavorare, credo che l'industria debba lavorare in primo luogo sul tema percezione del valore, cioè io faccio qualcosa che ha valore per il mio investitore e per il mio cliente, e su questo bisogna lavorare per costruire e per far percepire questo aspetto, perché altrimenti si lavora male. Se manca la fiducia si lavora malissimo da entrambe le parti, e la direzione nella quale si va è sicuramente quella sbagliata, perché naturalmente chi non ha fiducia aspetta conferme, e le conferme da dove arrivano se non dal quanto mi rende? Come si vede è un circolo vizioso che non si riesce a rompere. Il tema della percezione di valore da parte, io dico dell'industria, perché prima abbiamo parlato di prodotti, naturalmente al cliente le soluzioni vanno portate, e le soluzioni alla fine sono i prodotti, quindi non c'è il demone che è il prodotto e l'angelo che è il consulente. C'è il consulente che lo fa scegliere. C'è il consulente che arriva alla soluzione. Allora vi devo interrompere perché è il momento in cui noi invece qui istantaneamente diamo, domandiamo e diamo. Rispondeteci telefonando a 800 24 0024. Non si accettano, purtroppo non possiamo accettare altre modalità di partecipazione. Chi ci risponde per primo esattamente potrà aggiudicarsi una copia del nostro volume imperdibile di Deborah Rosciani e Mauro Meazza, Risparmiare è facile se sai come fare, per i tipi del Sole 24 Ore. Prego. Lo trovate nelle migliori librerie e anche su Amazon, se non riuscite adesso a telefonare. Sempre, perché Amazon ha bisogno della nostra pubblicità, come ci teniamo a puntualizzare ogni volta. Sono proprio prezzolato io da Amazon, dirtelo. Sì, ma lo sappiamo tutti che sei la solita. Allora, vogliamo sapere come si chiama l'associazione che organizza consulenza. Più facile di così non riuscivamo a farvela. Traffico! Due di denari. Siamo rientrati per l'ultimo collegamento da consulenza. Ripeto la domanda che consentirà al primo che ci raggiunge dalla risposta esatta al 800 24 0024 di aggiudicarsi una copia di Risparmiare è facile se sai come fare. La domanda più semplice di così non si riusciva a trovarla, ed è questa: come si chiama l'associazione che organizza Consulenzia, questa 3 giorni dedicata alla consulenza finanziaria? Accettiamo anche la risposta in sigla, no Deborah? Ma direi assolutamente. Siamo di una bontà. Dici, proprio praticamente ci abbiamo l'aureola, il minimo. Guardate, a me è stato proposto, ci racconta un ascoltatore, un investimento paventando un imminente patrimoniale solo un paio di mesi fa. È corretto, ovviamente. Possiamo dare un giudizio abbastanza limitato rispetto a questa storia, bisognerebbe conoscere un po' tutto quello che è successo nella relazione fra questa persona e la figura professionale alla quale si è rivolta. Non sappiamo se è successo in banca, se è andato da un consulente finanziario, se è stato un broker di altro tipo. Il fatto è che anche il fisco un pochino va considerato, no, nelle nostre scelte finanziarie. Questo per arrivare a dire, Conte e Bertelli, lo chiedo ad entrambi, quando si tratta di affrontare l'aspetto dei costi delle nostre soluzioni di investimento, anche su questo tema, se negli ultimi anni non ci fosse stata la spinta di MiFID, sicuramente il consulente magari non sarebbe mai stato il primo tema che va a toccare quando fa una proposta di consulenza al suo cliente. Dall'altra parte però è anche vero che convincersi, farsene una ragione del fatto che il consulente al quale ci rivolgiamo va remunerato, non vive d'aria, non è una sceta, e che quindi quei costi che sostiene vanno anche a remunerare l'attività consulenziale che ci viene rivolta, è stata anche questa una bella battaglia, Conte. È stata una bella battaglia. Lei come dire, ha rappresentato in maniera molto sintetica ma molto efficace il processo. È un processo ancora in corso di elaborazione. È chiaro che qualsiasi attività professionale è giusto che sia remunerata. La percezione di valore di cui parlava il professor Bertelli prima è sostanzialmente l'elemento centrale, ma c'è un aspetto che secondo me motiva fortemente il consulente a rappresentare al cliente questo aspetto, questo valore, ed è la percezione di valore di sé che ha il consulente, quindi la capacità del consulente di porsi come elemento, come tramite che abbia effettivamente il compimento del valore stesso, quindi che il cliente percepisca che c'è una differenza rispetto al far da solo, e quindi è quello il tema fondamentale. Ovviamente da qui rivengono tutte le elaborazioni normative da un lato, e secondo me anche etiche, perché è giusto che il consulente sia fortemente trasparente, come d'altronde la norma impone, sia trasparente il sistema in sé, non soltanto il consulente come unico attore, ma il sistema è molto più ampio e complesso, affinché, ripeto, i clienti, gli investitori possano rendere orizzontali questi elementi, cioè il valore del servizio ricevuto e la giusta remunerazione di questo servizio, cosa che dovrebbe, ritengo, accadere in qualsiasi ambito. Forse nel nostro si evidenzia in maniera maggiore perché parliamo sostanzialmente di denaro, ma anche qui il discorso che ci pone verso gli obiettivi e verso il raggiungimento di cose concrete, quindi la determinazione del potere d'acquisto di queste sostanze che ci potranno soddisfare i nostri bisogni, quindi i bisogni del cliente in questo caso, forse lì è la chiave, e nel tempo dovremo lavorare sempre più perché questo sistema venga percepito come un qualcosa che ha ogni componente al suo posto e sia chiaramente visibile da tutti. Professor Bertelli, lei ci ha già detto prima, il consulente è un signore che deve fare, una signora che deve fare domande. In primo luogo deve fare delle domande, deve quindi anche poi saper capire le risposte, mi verrebbe da chiosare, perché anche questo è abbastanza essenziale. Però serve una preparazione specifica superiore in qualche modo, nel senso che ieri discutevamo anche del ricambio generazionale in corso, e in realtà da completare, ma qui ci dirà poi, confermerà o meno il vicepresidente Conte, e serve una preparazione specifica. Allora dobbiamo immaginare anche un percorso formativo più severo di quello, peraltro già adesso con l'albo c'è un esame molto selettivo. C'è un sito www.organismocf.it, controllate di sopra se la persona a cui affidate i soldi è iscritta in albo, scusate questo momento di servizio. Dobbiamo migliorare ancora questo percorso di preparazione. Dunque, io ricordo sempre ai miei studenti che se loro provano senza studiare a fare l'esame per l'iscrizione all'albo, verranno bocciati. Cioè, questo è il senso. Anche dobbiamo... se sono laureati magari con lei, però devono... Perché è esattamente come avviene per i dottori commercialisti. Cioè, non è che uno prende la laurea e va a fare la prova di dottore commercialista e passa. Bisogna studiare. Bisogna studiare parecchio anche. Perché è importante studiare? Perché è importante studiare per saper fare quelle domande giuste che tu sai fare solo se hai competenza e anche esperienza, ma anche competenza. Il medico ci fa le domande giuste perché ha studiato e naturalmente sa anche interpretare le risposte, e questo è un dato importante. Ricordiamoci che noi rispondiamo a una domanda diversa da quella che ci viene posta. Ce lo insegna Kahneman, cioè ci dice l'effetto sostituzione. Quando ci viene fatta una domanda complicata, noi invece di dire scusa non ho capito, rispondiamo a un'altra domanda che è la nostra. Quindi chi ci sente deve capire che la nostra risposta deriva sostanzialmente da non aver capito bene la domanda. Quindi non possiamo fermarsi alla prima risposta. Non è la prima risposta è quella che conta, perché nelle cose complesse non è mai la prima risposta quella che conta, soprattutto quella detta da un non esperto. Quindi, detto questo, io direi che il messaggio che noi dobbiamo dare agli investitori è che i consulenti sono competenti, e dobbiamo dare questo messaggio anche in modo molto chiaro, lo dicevo anche prima in modo provocatorio, perché non dire che dal 2021 il consulente finanziario deve essere laureato in materie economiche? Perché questo è importante? Perché Kahneman insegna: quello che vedi è quello che è. Quindi se io so che un consulente deve laurearsi, considero un consulente laureato, certo. È molto semplice. A proposito di risposte, fra un po' abbiamo la risposta al nostro quiz, è arrivata un'ascoltatrice che è pronta a darcela, però volevo fare prima della chiusura un altro commento col professor Bertelli, visto che è così uno dei massimi esperti italiani sui temi della finanza comportamentale, noi la reputiamo tale. Professore, le volevo chiedere un giudizio di questi 2 anni di strategia nazionale nel nostro paese sull'educazione finanziaria. Per un accademico naturalmente l'importante è capire i risultati, che tutto quello che è stato fatto nel corso di questo tempo, i risultati di tutto quello che è stato prodotto in termini di iniziative sul territorio, è la fatica più grande dell'attività del Comitato Nazionale, misurare la misurazione appunto dei risultati, ma nel complesso siamo partiti comunque, visto che prima eravamo un po' in ritardo su tutto questo. Che cosa ne pensa rispetto a quello che è stato fatto? I risultati si misurano nei comportamenti. Cioè, sostanzialmente l'educazione finanziaria, la cultura finanziaria si diffonde nella misura in cui il comportamento cambia. Finché il comportamento non cambia, evidentemente i risultati non ci sono. Allora, il tema dell'educazione finanziaria io lo interpreto in modo molto netto. Noi dobbiamo fare cultura finanziaria. Quando mio figlio ha preso la patente mi interessava di più che conoscesse bene 4 ruote o che avesse imparato che prima di guidare non bisogna bere. Credo che sia molto più importante insegnare agli investitori come si rispetta il proprio denaro, quali sono le regole che consentono al proprio denaro di essere rispettato, perché alle volte noi investitori manchiamo di rispetto al nostro denaro. Conte vuole dire 2 cose prima dei saluti? Stiamo e anche qui velocissimo, il fattore tempo è fondamentale, quindi nella relazione il consulente può e deve essere il primo educatore finanziario. Benissimo. Il primo portatore di cultura finanziaria. Vuoi ribadire la domanda, Mauro? Abbiamo Lucia da Pordenone. Ma certamente. Allora, signora Lucia, noi abbiamo chiesto come si chiama l'associazione che organizza consulenza. Lucia? Buongiorno, ANAF. Buongiorno. Brava. Ah, bravissima. Lucia, il libro è già in partenza per Pordenone. Buona lettura di Risparmiare facile se sai come fare. Ottimo. Se compri il libro anche esatto. Per chi non grazie. Ha potuto partecipare. Grazie a Luigi Conte, a Ruggero Bertelli, vi lasciamo la vostra conferenza di questa mattina. Noi abbiamo terminato anche la nostra missione qui a Roma, ritorneremo speriamo l'anno prossimo, ma soprattutto speriamo di ritornare a Milano oggi.